dove sei? Stavano mentre ne bannuta. Ha detto che ti sentiva un bel basso, attore. Forse c'è in che luogo che è qua, tu. Non credo che mi intende basso. Infatti ho sentito un bel basso, davvero. Una volta si usciva forte, usciva. Ma vabbè, oggi si è più benedetto che lui. Cosa hai detto? Sono lei. E cosa hai detto, grazie? Che a lui ho detto. Lui proprio non lo sento quasi più. Una volta si va forte. No, Antonetti, arrivo a tratti, mi arrivi, e non ti ho capito cosa hai detto. L'hai copiato, Antonello, attore. Beh, devi essere anche il luogo Trento e non esci, beh, come te devi uscire, devi essere... Vabbè, rientro dopo che vado a fare l'insulina con la signora, attore. Sì, la sono qua, grazie. La sono qua. Eia. Attenzione, signor Battisio. Attenzione, signor Battisio. Non è rientrata, Battisio, rotto. Oh, ma è entrato Bannuda. Non seguo già bene, ma boh, deve essere vi lasciutato. Esattamente. Ma già entra, là. Già entra, lo sta ascoltando sul 23. Boh, non lo so. Attento, signor Bacchisidu. Otto. Dimmi, Gianmarie. A 27 accesa ce l'hai. Sì. Passa un attimino sul 5, là. Che voglio fare una prova, tu. 5 minuti, là. Allora, Bacchito, arrivaccio, sento. Sì, io sono qua. Come la giubbotta io 23, la banda laterale. Lascialo fare, lasciali fare, là. Stasera è occupato, cosa ci vuoi fare? Con quanti canali che ci sono, gatto. Siamo sempre noi lì, va bene. Hanno visto, magari non c'era nessuno, sono in traccia, anche quello. Va bene ugualmente, va. E noi usiamo qua. E infatti, noi rimaniamo qua e va bene ugualmente, va. Marino. Attenzione, signor Marino, finito hai. Ah, che quello sarà impegnato, guys. Impegnato, è graziano, non è andato. Dovevo andare a fare l'insulina con la signora vicino. Ah. Adesso tocca fare anche l'infermiera, Graziano, gli tocca. Infatti, è diventato infermiere. Grazie. Tira, vale, siamo a subire all'ospedale, gatta. Ho diviso tutti che si... con un confino. E così, non fate ne fura. Ah, sì, non fate ne fura prima di l'ora. Andiamo, gatta. Vai, se cadu. Sì, vabbè. Ci sarà. Andiamo. Se mi fa. La questione è andare a mettere, mi pare. La questione è, fra poco succede qualche cosa, tu vedrai. Purtroppo. Ce ne sono troppi, ce ne sono. Ogni giorno, sino a che non si fa il vaccino, ci sarà spesso. Perché non siamo attenti, quando usciamo non siamo attenti, facciamo troppe cose in greppa che non dobbiamo fare, per cui la gente se ne frega, capito? Però dopo che succedono le cose se ne pentono, capito? Quello è la questione, mi sembra che è abbastanza seria, però la gente se ne frega, un po' di gente. Infatti. Vedi gente se ne frega e non porta mascherina, stanno tutti insieme e magari li sono sanzionendo di gente che si dovrà pagare 400 euro da Cavani a Busciaccala. E adesso dice che danno un aiuto a chi ne ha più bisogno, grazie a questi commercianti che non riescono a andare avanti, a pagare tasse senza lavorare, capito? Per cui, è un bel disegno, stanno chiudendo. Cazzo, uno se ne voleva andare a San Marino perché lì sono tutti aperti e possono lavorare tranquilli e non hanno dato il permesso di andare a San Marino a lavorare. Vedi cosa succede, che non vogliono uscire manco più dalla Sardegna, non vogliono uscire. No, no, è una, sta diventando una cosa brutta, sta diventando. Ah, una volta hanno iniziato che c'era questo, questa rovina, dovevano controllare quando stavano arrivando sia agli aeroporti sia anche sulle navi e su tutto questo. Li dovevano controllare, invece non li hanno mai controllati, e la cosa si è sviluppata anche per quello. Poi danno colpa alla Sardegna, per forza, magari erano infetti, cazzo, sono venuti qua e è andato a condimento a tanta di quella gente, dice la Sardegna, per forza, sono di battesi nella regata ai loghi alla Sardegna, perché in Sardegna non ce n'erano, eravamo abbastanza tranquilli noi prima. Quando sono arrivati questi turisti e questi, ma da su a continente che hanno rovinato tutto. Infatti è così. Non hai visto in Sicilia quanti immigrati sono arrivati? Sì, barconi. Più di 800 immigrati sono arrivati. E che non fanno neanche da male, da quarantena poi si rimandano ai loro paesi. Cazzo, non si può qua a far rompere le scatole, già non per travaglio ma noi, figuriamo se bagisci. Ma questi qua li dovevano controllare anche, prima di far scendere dalle barche. Vabbè, ce ne sono quelli che vengono senza di nascosto e non lo sappiamo magari, anche quelli ci sono. E magari quelli sono tutti effettivi, cazzo, e vanno a condimento, capito? Anche quelli, però la maggior parte avrebbero controllato le navi, gli aeroporti, sarebbe stata la cosa più utile, invece no, li controllano uno e due, gli altri lasciano passare e se ne sono fregati anche per quello. Ecco, la rovina è stata quella per la Sardegna. Sì, Gio Maria, troppo tardi se ne sono accorti e avanti siamo belli anni li bresci, da chi c'è. Purtroppo non si può far nulla. Hai visto, sono arrivati algerini, sono arrivati tunisini, che non se ne può più di chi si è emigrati, di arrivi ai nonchi, che hanno guerra non finne in TV. Un attimo, tu. Ecco, ci sto. Gianmarì. Oia, sempre arrivati, so. Non finisce qua. Avrà finito, si copre carriera e si mette il padroniente da voi. Ma che pigliani un coso, i vostri biglietti e se ne mangiano dai nonchi. Anzi, dove siano i bagagli, dove siano i bagagli per tornare a rubare il giugno. Certo, non lo so che io, che si viene clandestinamente ai nonchi, che non si può andare a rubare il giugno. E noi dobbiamo bagagli. È disufficiente fare che si faccia la guerra e la cosa che bisogna e che si navione gatta to. Sufficiente gatta. Per carità gatta. Però li devi far controllare, una voce non vuole ai nuovi, devi controllare le frontiere, devi controllare tutte le nazioni però. Invece mi pare che per l'interesse i cacchi nazione, capito? C'è l'interesse allora di farsi arrivi, anche se no di farsi sdorrare da reddu. No Gianmarì, che ti sono tunisini e algerini che sono venuti clandestinamente con i barchini, ecco cos'è, anche se dove siano poi entrati in quarantena, voglio fare la quarantena e così si ritorna al paese suo a farvi la compendio, non vedete venire ai nonchi. Se vogliamo pagare a noi, ma portati da chi dato? Già che non abbiamo poco e niente, che ci può capire, se vogliamo da esso, ma portati, chi se lo fa tu è? Chi siamo a terra, noi siamo a terra, to. E chi su è? E mi pare che gli italiani sono... Noi pigliano a tutti, pigliano, come ti dice, abbiamo cosa a noi, di dare cosa a noi. Che a noi non si vuole in chi dà. Oh. pazzo e caducato. Lo se parvedi, lo se parvedi. Chi si noi vidimo e chi vedini. E chi non ripetere quando arrivi, arriverà di tutti. Cazzo, ti puoi immaginare, chissà quanto vi risolva a trovati. No, ma tutta la costa del sul ci sono controllanti. Carabinieri, carabinieri e finanzieri e forestali e cose che sono abbandonati la notte. Certo. A chi tu catta che non puoi caricare la nave di chi ci bruffo, chi catta? Catta l'ha denunciato e mi fa un rimbattimento. Ma tu ti immaginate, catta? E da poi la rifà, e là se la rifà i baccani. Tutto che bisogna che si troppi navi in giro per pigliare profughi, per farsi di nave, compreso. Facciano la riga a fare, no, che torna a dire a un paese detti. E poi la riga robusta d'andirani. Catta. No, se abbiamo ricontrollato le frontiere, tutti però, sarebbe stato l'ideale. Ma non li sto controllando, non li stanno controllando. Li lasciano andare a chi vi dava se interesse un bene in invasione, capito? A lasciarli andare. Se non li viene controllati, tu non andi al luogo, devi stare un paese tuo, invece no, vai, vai, vai, capito? E tanto mangia da voi. Infatti, già tutto un magnato sarà. Aspetta che aveva fatto il coprifuoco, aveva fatto, non è entrato più nessuno, aveva ne visto. Per carità, gatto. È pieno. La salsiccia è proprio... Boh, è come c'è. In qualsiasi luogo, tu lo vedi, ha trovato, gatto. Oh, sta per la l'accelerazione, buono, gatto. Cazzo, non ne parliamo della Spagna, di Lugosio, della Germania, la Francia, e tutti i bieni di brufoli, cazzo. E che di sicuro mi sono messi assemblati. I senatori sono diventati biondi e si sono impadronati di pezzi grossi, capito? Hai visto che la Libia ha sequestrato i pescherecci, in acqua internazionale, che si sono allagati, si sono allagati troppo. E avevano a liberare questi detenuti delinquenti che hanno arrecato questi profughi. Ma che si italiani che sequestrati, liberati la diano ancora che dà so? No, ci sono delle pescherecce bisogna che dà ancora. E ma il Barcellona ancora che dà? Sì, ancora in che dà so. Non vuole mollarli, no. Cazzo, bubu. Vedo un po'. Raga, chissà che il tuo padre è pure di caccia e noi non abbiamo fatto niente, invece andiamo noi e ti blocca ragazza, e non si lascia uscire. Sì, infatti è così, se andiamo noi non si vuole, devi presentare un basso appoggio per entrare clandestinamente. Carità. Vabbè, va, io chiuso, vai. Tanto, ma chi sono entrato là, non entra più, per cui... Mi approfitto, ci sentiamo domani, tu dai, buona giornata. E saluto di casa, grazie a piccola chiacchierata, anche se breve fa sempre piacere, dai. Bacchisio, no, non c'è, lo salutiamo ugualmente, sei in ascolto. E ci sentiamo, ciao anche a Graziano, dai. Ci chiudo tutto, ciao. Ok, ciao Gianmarie, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Gianmarie.